1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, le 7:19 minuti, è un po' di tempo che non lo dico. Debosciati miei, come state? Debosciati di tutta Italia, buongiorno e ben ritrovati. Allora, oggi parleremo un po' di immigrazione, avremo il sociologo Marzio Barbagli, autore di una ricerca che fotografa una mappa dell'Italia multietnica e anche legata ai crimini e dunque il legame immigrazione-criminalità c'è, non c'è, lo vedremo con Marzio Barbagli. Avremo ospite anche il sindaco di Padova Massimo Bitonci, lì a Padova poi c'è anche una polemica riguardo le parole del vescovo legate al Natale. Insomma, tutto questo è anche ben rappresentato dai giornali che andiamo a sfogliare in questo mercoledì 2 dicembre. Allora, i titoli sono tutti quasi improntati all'economia, ai dati. Il Sole 24 Ore, crescita in lieve frenata, a rischio l'obiettivo dello 0,9%. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, la frenata di crescita e lavoro. Anche Repubblica, frena il PIL, effetto paura sulla ripresa. Per il Fatto Quotidiano, jobs crack. L'occupazione è ferma e Renzi ha regalato 3 miliardi. Libero poi, inizia, si inaugura col Libero, una serie di titoli sulle pensioni. Pensioni shock per i trentenni, lavoreranno fino a 75 anni e guadagneranno il 25% in meno delle pensioni dei loro genitori. Giovani, miraggio pensione per il secolo XIX, La Stampa, pensioni, la beffa degli under 40, Il Giorno, pensioni, il danno e la beffa. Oh mamma mia, io non posso dire niente al riguardo, qualcosa, oddio, mi hanno accusato di dire ce l'hai con gli anziani, quelli che hanno la pensione adesso. No, no, allora adesso ribalterò il messaggio, visto che l'ho già fatto. Giovani, dovete morire in fretta, perché se no non possiamo garantirvi un futuro, dovete morire. Questa è l'appello che faccio, queste pretese di vivere fino a 70 anni. Bisogna pagare tutto e subito. Il Giornale, anche noi finanziamo l'ISIS, la beffa del petrolio. Mentre Il Messaggero, statali licenziabili, si apre il caso. Anche Il Manifesto si dedica all'apertura delle pensioni, sui conti, insomma. Allora, però, voglio partire dalle altre notizie, sono tante anche di cronaca che mi hanno incuriosito, mentre continua tutta la vicenda di Vatilix, Francesca Sciauchi e il marito che ora sono accusati di associazione per delinquere, racconta il Corriere della Sera, per una serie di pressioni che avrebbero fatto insieme tra l'altro a un funzionario, all'ex funzionario di Palazzo Chigi, Mario Benotti. Pressioni anche con Paolo Berlusconi, vabbè, ma tutti i dettagli dell'inchiesta sono raccontati da Fiorenza Sarzanini a pagina 20 del Corriere. Ma in ambito chiesa mi hanno incuriosito altre vicende, per esempio l'intervista che Monsignor Galantino, che è il segretario della CEI, fa con il fatto, rilascia il Fatto Quotidiano. L'intervista è di Carlo Tecce a pagina 4, e sentite cosa dice Monsignor Galantino: in chiesa ci sono faraoni che rubano, ma adesso chiederemo i danni. I faraoni sono coloro che hanno perso il senso del limite, confondono i mezzi con il fine, finiscono per adorare il dio denaro, vendersi per la carriera. Nella chiesa stridono ancor di più. Quando sento di casi di religiosi che si intascano soldi destinati alla carità, provo il vivo prurito di costituirmi parte civile in un processo a loro carico. Non si possono calpestare né i poveri né i fedeli in questo modo. Chi getta fango su vescovi e preti esemplari? La Chiesa deve chiedere i danni. Insomma, è molto chiaro, Monsignor Galantino, segretario della CEI, la Conferenza dei Vescovi, a dire la Chiesa chieda i danni per coloro, li definisce i faraoni, che dentro la Chiesa rubano. Io vivo in comunità coi preti che lavorano con me, ciascuno ha la propria stanza e condividiamo il refettorio. Personalmente ho una vecchia macchina Polo che ora dovrei anche cambiare, la mia remunerazione non supera quella di un operaio. E dunque ecco che sentire queste cifre fa davvero scalpore per Monsignor Galantino, e questa mi ha colpito. E poi c'è tutta la polemica su il Natale, non si placa assolutamente. Ci si è messo anche il vescovo di Padova, Monsignor Cipolla, a rilasciare una dichiarazione che poi è stata parzialmente da lui ritratta, spiegata, modificata, ma la dichiarazione è stata questa: io farei tanti passi indietro pur di mantenerci nella pace, nell'amicizia e nella fraternità. Non dobbiamo presentarci pretendendo qualsiasi cosa che magari anche la nostra tradizione e la nostra cultura vedrebbero come ovvio. Se fosse necessario per mantenere la tranquillità e la relazione fraterna tra noi, non avrei paura a fare marcia indietro su tante nostre tradizioni. Parlava dei canti del Natale. Ma come? Un vescovo che dice facciamo marcia indietro, un vescovo che si ritrae. Addirittura Mario Giordano sul Libero scrive: ecco il vescovo che butta a mare Gesù per non disturbare Maometto. Vabbè, qui nel titolo magari si va anche un po' oltre. Comunque Giordano dice: avete sentito Monsignor Cipolla? Fate sparire tutto, italiani, capanna, bambiniello. Quello che conta per Monsignor Cipolla è la relazione fraterna. O scrive Libero: inginocchiarsi al Corano, difendere la tranquillità. Ha detto proprio così, scrive Mario Giordano, il prelato prescelto da Papa Francesco. Lo ha ribadito. Non è questo il messaggio di nostro Signore? Andate e predicate la tranquillità. Non disturbate i fedeli di Maometto con questa storia del Vangelo, il battesimo, la cresima, la comunione, il segno della croce, Pater Nostro, Ave Maria. Tutta roba di cui vergognarsi, si capisce. Questo Mario Giordano. Per la verità, Monsignor Cipolla fa un'intervista al quotidiano Avvenire. E ad Avvenire, insomma, precisa, dice, cerca di fare anche un po' qualche distinguo. Dichiara che è stato un po' frainteso, non è vero che i cristiani devono in qualche modo ritrarsi, e non è vero che devono rinunciare alle tradizioni. Ma intervistato da Antonella Mariani a pagina 7 di Avvenire, Monsignor Cipolla dice: beh, sono sorpreso dalla polemica, pensavo a chi non la pensa come noi. Ecco il pensiero di Monsignor Cipolla: credo che la nostra fede cristiana non possa essere riassunta e rappresentata solo dalle consuetudini, che ovviamente rispetto profondamente, ma non sono la nostra fede. Penso ai cori, gli alberi addobbati, le luminarie, i presepi, tutto bello, ma il messaggio del Natale deve coinvolgere più in profondità la nostra vita. Però lei ha parlato di passo indietro. Cosa vuol dire? Vuol dire non esibire in modo aggressivo? Vuol dire non fare calcoli di piccole vittorie? Abbiamo un messaggio da portare che si misura in tempi lunghi. Il nostro impegno dunque è fare il bene. Insomma, vabbè, una spiegazione molto molto dettagliata, un po' più profonda, un po' più articolata. Non alziamo steccati, costruiamo ponti. La questione, insomma, che questa cosa dei simboli natalizi sta diventando veramente una telenovela discretamente insopportabile. Sentite qui poi che succede in Liguria: vogliamo il crocifisso in consiglio regionale. Il consiglio regionale ligure discute di questo, pagina 9 del Secolo XIX. La discussione finisce a bestemmie. A un certo punto partono qualche bestemmia dal pubblico, cioè siamo veramente a livelli. Tutto il dettaglio a pagina 9 del Secolo XIX, a livelli abbastanza infimi. Oh, ma siamo a questa notizia, questa che volevo mettere tra notizie, tra le mani sul volante, invece non è questa, ma ci sarebbe da mettere le mani anche addosso a qualcuno. Cosa succede al Comune di Roma? Amici di Roma, ascoltate bene. Pare, secondo l'accusa, che ci siano 5 funzionari, 5 dirigenti del Comune di Roma che con un clic, cancellavano le multe dei VIP presi nella zona traffico limitato. Un clic, e i funzionari cancellavano le multe. Così le casse di Roma hanno perso milioni di euro. Pare in un caso, in un solo caso singolo, che abbiano cancellato 600.000 euro di multa. Ma chi è che prende 600.000 euro di multa? Con cosa passi con 400 macchine al giorno? Incarichi tutti i tuoi parenti di passare tutto il giorno, chiami 300 amici, passate tutti con la stessa macchina a turno nella ZTL. 600.000 euro, non voglio sapere in quanto tempo ha accumulato queste multe. Comunque c'erano 5 dirigenti a Roma, multe cancellate in cambio di mazzette. Beh, certo. Questa è l'accusa, eh. Campidoglio, indagati 5 dirigenti, toglievano ai VIP le multe della zona traffico limitato. Quanto vorrei sapere la lista dei nomi delle multe tolte. Quanto la pagherei? Non la pagherei 600.000 euro, ma qualche eurino ce lo metterei di tasca mia per avere la lista dei beneficiati di questa cosa e leggerla in onda. Nome e cognome, in onda. Ah, quanto sarebbe bello. Pagherei di tasca mia. Cari ascoltatori, vi giuro, 50 euro sono disposto a darli se qualcuno mi procura questa lista di nomi. Lo faccio per voi, 50 euro investiti bene. Ma il premio Mani sul Volante è quest'altro. L'articolo che mi fa pensare della giornata. Succede in Campania, qualcosa è stato anticipato dal Mattino e da noi e nei giorni scorsi abbiamo parlato. Libero, Peppe Rinaldi, la Campania è vicina al crack e i consiglieri si regalano cellulari. Arriva il Natale alle porte, arrivano i nuovi telefonini per tutti gli eletti del Consiglio regionale della Campania. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Ciao Milan, che te porti lo via fuoco. Ottimo, ottimo, stiamo facendo una grande colletta. Allora, io ho detto 50 euro per avere la lista dei VIP beneficiati dal fatto che gli hanno tolto la multa, no, a Roma. È partito subito un ascoltatore, 50 li do anch'io, 20 euro un altro, 50 da Angelo, 100 da Gian, altri 50, 10 da Francesco. Ma insomma, ma avremo un listone. Ecco, poi è arrivato da Bologna l'ascoltatore che mi dice che offrire soldi per avere documenti secretati è reato e tu lo hai appena compiuto in diretta. Va bene, ecco, finirà come in Italia. Io indagato, io processato, io condannato e la lista non si saprà mai. Va bene. Andiamo avanti così, caro amico da Bologna. Allora, la questione del terrorismo internazionale. È stata fatta un'indagine su 4 simpatizzanti del jihad, così vengono definiti al Corriere della Sera, che giuravano. Ora, io quando leggo queste intercettazioni di persone che si dicevano tra i loro intercettati non siamo Van Damme e Rambo, noi facciamo sul serio, a me sembra già di avere a che fare con dei grandi pirla. Però, non è per sminuire l'inchiesta, anzi, minacce e armi, la rete tra Italia e Kosovo, mettevano post su Facebook dicendo questo sarà l'ultimo papa. Mio figlio sarà il nuovo califfo, anche qui su Facebook. Cioè, ci rendiamo conto, no? Come tramavano nell'ombra su Facebook. Oppure facevano, insomma, inni alla jihad, inni alla sharia che doveva colpire delle persone specifiche, come la moglie ebrea dell'ambasciatore americano in Kosovo, per lei auspichiamo la sharia. Insomma, sono stati arrestati. I jihadisti di Brescia, così vengono definiti anche su Repubblica, nei loro messaggi, voglio sperare, soprattutto messaggi deliranti più che messaggi di persone in grado di compiere quello che dicevano, raccontavano: disintegreremo l'Europa, imporremo la sharia, facciamo sul serio. Ecco, forse la terza, facciamo sul serio, dovevano dirlo, perché messa così sembravano più deliri di onnipotenza rispetto all'altro. Comunque le intercettazioni sono tutte sui giornali e hanno portato all'arresto di queste persone. Tra l'altro, per quel che riguarda la lotta al terrorismo internazionale, vi segnalo un'intervista a Silvio Berlusconi. Oggi viene intervistato da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, un'intervista in cui parla con un tono da statista molto alto Berlusconi. Il titolo è sulla politica interna, PD e 5 Stelle al ballottaggio, è un incubo, voterei scheda bianca, ma per gran parte dell'intervista parla di attualità internazionale. Dice Berlusconi: mi sto adoperando per favorire la comprensione tra Russia e Occidente. Sono a piena disposizione del mio paese per sostenere il costituirsi di una coalizione sotto l'egida dell'ONU. Un incontro in Italia dei leader più importanti del fronte contro lo Stato islamico avrebbe una valenza organizzativa e simbolica importantissima. Non possiamo illuderci che altri facciano le guerre per noi e aspettare di lucrarne i benefici. Certo, condivido la prudenza e la necessità di non ripetere gli errori commessi in Libia. Quanto a Renzi, dice Berlusconi, la prudenza nel combattere il regime di Assad in assenza di un'alternativa migliore è un atteggiamento saggio. La prudenza nel combattere lo Stato islamico, invece, è un'ambiguità che non ci possiamo permettere. Questo per il fronte internazionale. Poi parla di politica interna, dice: la Meloni e Marchini a Roma sono entrambi ottimi candidati, a Milano la candidatura Sallusti è un'opportunità eccellente, quanto a Salvini mi pare l'abbia esclusa lui stesso. E infine sulle politiche, il vero incubo sarebbe uno scenario con al ballottaggio Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Voterei scheda bianca come molti elettori di Forza Italia, ma è un vero e proprio incubo e non permetteremo che si realizzi. Comunque l'intervista a Silvio Berlusconi è un'intera pagina, a pagina 5 del Corriere della Sera. Parliamo un pochino di economia, perché ci sono tante notizie interessanti. Una, certo, l'ho fatta come provocazione, sempre l'ascoltatore lo stesso di Bologna mi dice poi: augurare la morte a qualcuno non si fa. No. Infatti non ho augurato la morte a nessuno, ho fatto un appello, cari giovani, visto che non ci sono i soldi per pagare le pensioni. E siccome quando mi sono azzardato a dire in passato che forse bisognerebbe per questo rivedere le pensioni attuali, a qualcuno rivedere le pensioni attuali, apriti cielo, si sono scatenati tutti coloro che percepiscono le pensioni, sei un fascista, sei un disgraziato, sei un farabutto, sei un affamatore di famiglie, ci vuoi mandare sul lastrico, ci vuoi rovinare. Va bene, allora dico, la terza soluzione, visto che i soldi non si creano come Pinocchio dall'albero, la terza soluzione è: cari giovani, mettiamoci, mi ritengo giovane anch'io, sono 44 anni, mettiamoci tutti una mano sul cuore e moriamo in fretta, e così risolviamo noi il problema, lo Stato, con questa morte tranquilla, serena. D'altronde prima o poi bisogna morire, abbiamo questa stupida pretesa di vivere fino a 70-80 anni, invece moriamo subito e risolviamo noi il problema alla radice. Il problema, al di là delle battute, c'è. Le pensioni ci costano care. In Italia il prelievo più esoso, siamo all'ultimo posto dell'area OCSE, il 33% dello stipendio se ne va in contributi previdenziali, la spesa per le pensioni è di 270 milioni di euro. E Boeri dell'INPS, il giornale dice, terrorizza i giovani, forse li rende consapevoli. Andrete in pensione a 75 anni prendendo il 25% in meno di quello che prendono i vostri genitori mediamente. Eccolo allora che giustamente la stampa fa una pagina dedicata ai trentenni al lavoro, un destino difficile da cambiare, quello di arrivare alla pensione a 75 anni. C'è un'intervista anche all'autore di Zero Calcare, Michele Rech, 32, dice, un mito per moltissimi, l'autore di Zero Calcare, che dice: mi terrorizza abbastanza far parte di questa generazione, spero che il problema, che riguarda tantissimo di noi, trovi una soluzione collettiva proprio a parte nostra. E non è vero, come disse la Fornero, che siamo ociosi, schizzinosi. Questa è una generazione di amici che ho, che si sono laureati e fanno un lavoro totalmente diverso. Amici che si sono laureati in biologia e insegnano nuoto, in psicologia e fanno le babysitter, in storia e fanno i camerieri. E comunque non basta, questa è una generazione generosa che si è dannata l'anima per trovare un posto nel mondo e ha visto tradite le sue aspettative. Certo, l'autore di Zero Calcare dice: io mi sento anche un privilegiato. E come succede a tanti della mia età che faticano a pagare l'affitto e devono vivere con 3 coinquilini, io invece mi sento privilegiato rispetto a loro. Ma molti di questi poi finiscono a spacciare nelle borgate di Roma, per esempio, succede. Ecco, oppure questa è la soluzione. Non la voglio dire, se no mi dicono inviti allo spaccio. No, assolutamente no. Però l'invito quello ai giovani. A togliere il problema alla radice, allo Stato, l'unica soluzione è questa: moriamo in fretta. Che dobbiamo fare? Mi ci metto dentro anch'io. Intanto però saluto, lui non è giovane quindi non ha problemi, il nostro Mauro Meazza. Fermo Cordazza. Bonaventura passa in vantaggio. Abbiamo spezzato le reni al Crotone. Attenzione, scusa Mauro Meazza. No, scusa, sono rimasto abbastanza sconcertato. Devo dire, ma ho diverse domande da rivolgersi, ma innanzitutto... Grande trionfo ieri del Milan sul Crotone, in Coppa Italia. Ne sono, come dire, lo apprendo, ecco. Stavo dicendo ne sono lieto, ma poi sì, ci ho ripensato. Lo apprendo. Lo apprendi. Lo apprendo, bene. Lo apprendo. Salutiamo invece... tutti gli amici di Crotone. Dai, su, Mauro, no, scusa, è che Pavarotti in questi giorni. Ma Peter, ma voglio dire, Peter, perché non si limita a fare uso di sostanze lecite? Peter è Peter Bescapè, sì, tecnico. Sì, sì, stavolta ti giuro, ecco, che io non l'avevo prevista, l'ha mandata proprio. Allora, sì, senti, recuperiamo un momento di serietà, ti sei appassionato, sì, alle pensioni. Allora, nella sezione di norme e tributi del Sole 24 di oggi che tu leggi, doviziosamente, facciamo doviziosamente oggi, si parla della rivalutazione delle pensioni per l'anno prossimo, sai, okay, che c'è il meccanismo, è di certo, valutazione, ecco, il valore è pari a zero. Bene. L'attesa, adesso c'è ancora un mese davanti, però insomma il valore provvisorio, ti spiega Matteo Prioschi, è zero, pensioni senza rivalutazione nel 2016. Tra l'altro, attenzione, perché si dovrà probabilmente restituire uno 0,1 degli aumenti relativi a quest'anno, perché il valore definitivo si è rivelato più basso. Ti spiegano tutto, come sempre, le pagine di norme e tributi del Sole 24 Ore, nelle quali apprenderai anche che sono stati diffusi le indicazioni delle entrate per il patent box, che tu continui a ignorare, e invece è una misura molto importante per la detassazione di marchi e brevetti e quindi ricerca, e siccome anche oggi parliamo nelle prime pagine delle innovazioni italiane, questo patent box ci interessa parecchio. Oh, e poi voglio farti una domanda, caro Alessandro. Oh. Ma com'è che sono anni e anni e anni che tu parli di 2 urini, sì, e oggi così ne hai cacciati 50? Non è che ho detto sono disponibile a cacciare, ne devo trovare 48 per... Non è che c'entra la voluntary disclosure? No, perché no, ne scriviamo oggi di voluntary disclosure, siccome l'incasso si sta rivelando più alto delle prime previsioni, uh-huh, in cassa ci sarebbero già 3 miliardi e 800, così tanto per parlarne, non vorrei che ci fosse un legame tra le due cose, ma io... Naturalmente non, questo non posso illazioni, avanzarlo. Illazioni. È una pura illazione la mia, denunciami pure, ma tanto come stai ho una valangata di cose da opporti. Senti, sull'occupazione hai detto, ti segnalo gli approfondimenti su appunto il rallentamento dell'economia e l'occupazione oggi in pagina 2 e 3. Una cosa sul lavoro, ne parlavi prima, il lavoro a tempo determinato continua a essere prevalente sulle assunzioni a tempo indeterminato, questo mi sembra il segnale da analizzare più attentamente, o se vogliamo dirlo insomma più preoccupante, perché sono già diversi anni che cerchiamo di intervenire per invece invertire la tendenza. Certo. Va bene, tra tutto e molto altro sul Sole 24 Ore di oggi, una notizia positiva che mi piace, mi serve dire adesso, perché invece le immatricolazioni dell'auto sono cresciute del 23,5%. Oh, accidenti, accidenti. E lo apprendi sulle pagine di Imprese e Territori oggi sul Sole 24 Ore. Come mai ti parlo di automobili? E poi voglio sapere dove hai preso i 50 euro. Sì. Come mai ti parlo di automobili? Perché è arrivato il momento. Traffico! Alessandro Milan. Ma che cazzo è Alessandro Milan? Boh. Allora, saluto da Portland, un ascoltatore ci segue da Portland in Oregon, dicendoci e scrivendoci via WhatsApp, qui ancora ieri e mi godo la fine del martedì, senza sapere cosa è successo il mercoledì mattina in Italia. Siamo qui a dirtelo, caro ascoltatore. Mentre un ascoltatore mi scrive: io ho la pensione con retributivo, me ne vergogno e do il 10% a mio figlio. Si chiama Antonio da Roma. Vedete che qualche seme di saggezza c'è qua e là. Chi non prende le cose di pancia ma ci ragiona. Allora, l'altro tema economico che è sui giornali è la questione proposta con un emendamento del Partito Democratico che elimina la soglia di 30 euro per l'utilizzo della moneta elettronica. Insomma, per dirlo brutalmente, come viene titolato sui giornali, si potrà pagare, se passa questo emendamento, ma non è detto, è difficile, se passa l'emendamento si potrà pagare col bancomat anche il caffè. E Ettore Livini racconta in una pagina questa proposta su Repubblica, ma c'è ovunque, anche sul Corriere della Sera: i pagamenti con carta e posta sotto i 30 euro, i negozi già si lamentano, per noi è una stangata. La proposta, per essere completa, e così è, dovrebbe prevedere e prevede di abbassare il limite per utilizzare anche le carte di credito, però togliere un po' di commissione alle banche magari, no? Così i negozianti non giustamente però lamentano il fatto che se per una spesa di 1 euro o 1,50 euro devono pagare una commissione alta poi per l'utilizzo del POS, allora è chiaro che poi il gioco non regge. Comunque se ne discute in legge di stabilità, se volete poi dalle 8 ne parleremo anche con Oscar Giannino. Ho due notizie di cronaca che mi hanno colpito. Sono una sulla stampa, una sul giornale, e provengono dall'estero, diciamo così. Beh, una certamente dall'estero, dall'Arabia Saudita. Maurizio Molinari racconta, pagina 13 della stampa: l'Arabia mette a morte il poeta dei versetti blasfemi. È la storia che riguarda Fayyad, un artista palestinese di 32 anni, accusato di apostasia da una corte dell'Arabia Saudita perché ha scritto questi versi. Il petrolio è incapace di far del male a eccezione delle tracce di povertà che si lascia alle spalle. I profeti si sono ritirati e aspettarli è oramai inutile. E poi gli hanno trovato sul telefonino foto di donne vestite. Per questi messaggi e per questi versi considerati blasfemi è stato condannato a morte. Sono per il giudice del tribunale saudita strofe malefiche. No? I profeti si sono ritirati, aspettarli oramai inutile. E quindi, senza dare la data dell'esecuzione, però la condanna a morte e la successiva, si spera, mobilitazione. Questa storia è raccontata sulla stampa, pagina 13. Mentre ricordate la vicenda di Daniele Bosio, sono saltato sul giornale. Daniele Bosio era l'ambasciatore italiano in Turkmenistan, ha avuto una accusa terribile, quella di pedofilia nelle Filippine. È stato accusato da due attivisti di una ONG filippina che l'hanno trovato con tre bambini in piscina, faceva il bagno con tre bambini filippini. Ebbene, tutte queste accuse sono cadute. Non è vero niente, ambasciatore assolto dalle accuse di pedofilia. Lo avevano accusato di avere molestato bambini nelle Filippine, invece lui aveva trovato tre bambini abbandonati al loro destino e per questo li aveva portati nell'hotel dove stava lui, gli aveva dato dei vestiti, gli aveva dato da mangiare, li aveva fatti giocare in piscina. I bambini raccontano di essersi divertiti, i bambini interrogati dicono non ha fatto nulla, neanche una parola, neanche una carezza assolutamente interpretabile in modo strano. Era in vacanza, ha passato 50 giorni in cella e racconta tutto. Stefano Zurlo è stato assolto, non c'è alcuna prova contro di lui. Ambasciatore assolto delle accuse di pedofilia. L'Odissea di Daniele Bosio a pagina 17 del giornale, lo faccio vedere anche in diretta su Periscope. Va bene, siamo velocemente alla chiusura e dunque alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, che è questo. È stato trovato il segreto delle diete. Repubblica dedica una pagina con Elena Dusi. Il segreto delle diete. Ogni persona ha il suo cibo ideale. Ma che segreto è? Io c'ho l'abbacchio con lo strutto e la sugna come cibo ideale. Come la mettiamo con questa dieta, eh? Ma chi se ne frega!